Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. 16:34 minuti, Luca Tremolare al microfono. Oggi puntatona puzzle, vediamo un po' di tirare le fila a un tema a noi molto caro. Abbiamo qui Sandro Mangiaterra. Buongiorno a tutti. Che ci ha raccontato quante aziende. 33 aziende per la precisione. 33 aziende innovative, faremo il punto oltre che con Mangiaterra, con? Con Riccardo Pietrabissa, che è il prorettore del Politecnico per la sede di Lecco, ma ormai si può dire è candidato al rettorato del Politecnico. La prima tornata di elezioni ci sono il 27 maggio. Per cui quindi abbia... adesso potrai fare, Pietrabissa potrà fare il suo spot elettorale. No, adesso faremo invece più un ragionamento sulle imprese, poi dopo facciamo anche lo spot elettorale, ma prima le news. L'uomo di Neanderthal vive ancora dentro di noi. È quanto è emerso dalla ricostruzione del 60% del suo genoma, poi confrontato col genoma di 5 persone. Un cinese, un francese, un abitante della Papua Nuova Guinea, uno dell'Africa del Sud e uno dell'Africa occidentale. Secondo l'annuncio della rivista Science, nei 3 individui non africani sono stati rinvenuti geni di Neanderthal, di cui invece non c'è traccia alcuna, sorprendentemente, nel genoma dei 2 africani. Gli Stati Uniti cercano di dare nuove norme ai servizi a banda larga che consentono la diffusione delle TV via cavo e l'accesso ad Internet. L'obiettivo, dice la FCC, l'organismo governativo che in America sovrintende al settore della comunicazione, è arrivare a un quadro normativo che tenga conto di 2 principi: garantire la neutralità della rete e tutelare l'universalità dell'accesso. Vodafone Italia, Fastweb e Wind hanno ufficializzato il progetto per cablare con una rete in fibra ottica, Fiber to Home, le 15 maggiori città italiane, con un investimento di 2,5 miliardi di euro circa in 5 anni, che potrà essere ulteriormente esteso. Secondo una nota congiunta, il progetto potrebbe arrivare a coprire le città con più di 20.000 abitanti, raggiungendo il 50% circa della popolazione italiana, con un investimento totale di 8,5 miliardi di euro. Vabbè, allora, a parte che Mangiaterra non ci crede a questa cosa. No, non ci credo perché, dunque, sono reduce da un incontro a Udine nell'ambito del Festival delle Città Imprese. Veniva lanciato il distretto delle tecnologie digitali di Udine e il paradosso è che nel distretto delle tecnologie non c'è la banda larga. Certo. Vabbè, andiamo avanti, che la banda larga è stato un po' un filo conduttore di queste puntate sulle aziende che hanno reagito alla crisi, che hanno investito in innovazione, hanno cercato l'innovazione con varie strade. Una di queste aziende che abbiamo sentite, se non sbaglio, a novembre, a settembre era la Vibram. Sentiamo un estratto della trasmissione. Un cambiamento di 180 gradi, basta suola. Facciamo le scarpe che calzano come un guanto. A proposito, Zuccala, lei ce l'ha i piedi, calzano proprio come un guanto? Assolutamente sì, sono molto comode, oggettivamente ti senti come fosse piedi nudi, però sei... Allora, questa era la storia delle Vibram. Questa era la storia della Vibram di Albizzate, in provincia di Varese, un'azienda appunto conosciuta per il car armato, no? La suola delle scarpe da, non so, forse un secolo, e che ha lanciato le Five Fingers, che sono appunto le scarpette con il piede, le scarpette con, che hanno le dita del piede, e stanno conquistando l'America. Che quello è un esempio di creatività. Quello è un esempio comunque di creatività e di innovazione anche. Che mette insieme l'artigianato, che mette insieme la tecnica. Uno dei filoni che di questo viaggio... contro il declino, no? Nelle piccole e medie imprese di tutta la penisola, uno dei filoni è questo qua, insomma, che noi abbiamo chiamato il meticciato tecnologico, no? Cioè, non è obbligatorio fare sempre la stessa cosa e nella migliore delle ipotesi affinare la tecnologia nel tuo microsettore, ma si può anche cambiare andando a cercare nuove tecnologie disponibili per fare nuovi prodotti, no? Cioè, quindi, c'è un intreccio, un rimescolamento di carte, no? Per cui questi qui che facevano le suole di gomma, un'azienda chimica, insomma, che adesso si butta nel settore della calzatura, no? Con materiali d'avanguardia studiati anche con l'università. Ecco, questo è uno dei fili conduttori, no? L'intreccio dei settori. Tra l'altro, uno appunto dei temi è quello di studiati con l'università, cioè questa parte di questi discorso. Due sono, mi pare, i fili conduttori, no? Ecco, io volevo coinvolgere Pietra Bissa, perché noi vediamo, abbiamo letto in questi mesi un doppio tipo di realtà, e poi la continueremo a raccontare anche nelle prossime puntate, una doppia, un'Italia a due velocità, cioè un'Italia che bussa all'università. È un'Italia di piccolissimi che fa un po' tutto da solo e che lamenta la mancanza di ricerca, per cui da un lato c'è qualcuno che ha capito che forse con l'università si riescono a fare cose, dall'altro ci sono dei piccoli piccolissimi magari un po' impastoiati nella crisi, anzi molto impaludati dalla crisi, che però non riescono a capire dove andare a bussare. Sì, buonasera. Io credo che qui il tema sia difficile da affrontare perché esistono degli altri driver di questo problema. E un driver tipico è la velocità. La velocità oggi è uno dei punti chiave. Molte imprese hanno dei bilanci o delle previsioni trimestrali e in questo senso la ricerca purtroppo è difficile che possa entrare. Altri invece hanno delle strategie di medio e lungo periodo. L'Italia oggi è caratterizzata sicuramente da una grande creatività e molti ritengono che la creatività sia sufficiente per essere competitivi. In alcuni casi è vero. In alcuni casi è la creatività il punto di forza. Che non nasce quindi all'università, nasce un po' da che cosa? Qual è il genius loci della creatività? Un pochino di sale, un pochino di pepe. È un mix. Però si dice no, che l'imprenditore italiano è un imprenditore di grande creatività, vero, di straordinaria creatività. Il problema è capire se la creatività può basta essere ancora. No, può essere trasversale rispetto ai settori tecnologici. Non è così. Esistono dei settori in cui la creatività può essere necessaria, ma sicuramente non è sufficiente. Ecco, noi stiamo perdendo laddove la creatività non è più sufficiente. Tra l'altro poi non c'è nulla di più creativo di chi a un certo punto cambia tutto e passa a fare un mestiere completamente diverso, come è avvenuto nel caso di Pramac. Sentiamo un estratto. Incuriosisce che voi, almeno suo padre, insomma, la Pramac sia partita producendo betoniere per l'edilizia del Senese e sia finita al fotovoltaico e all'eolico e soprattutto a essere una di quelle famose multinazionali tascabili nel campo dell'energia. Ci spieghi come avete fatto, insomma, perché apparentemente le betoniere con il fotovoltaico non c'entrano niente. No, effettivamente no, però diciamo questo processo non è avvenuto in un mese, è da anni che abbiamo iniziato a diversificare prima a fine. Questa era la risposta. Tra l'altro, tu li aggredisci. Io mi sto rendendo conto adesso riascoltando queste puntate. Nel contesto, non si può estrapolare una frase certo, del contesto. Però, insomma, detto, voi sapevate... Non lo dico solo io, lo dico. No, però era bello il tono. Voi sapevate fare betoniere, poi adesso vi mettete a fare energia rinnovabile. Come fate? Io non riesco a fare la tua imitazione. No, però questo è un altro elemento, no? Cioè, in queste ultime settimane escono analisi, si è rinfocolata la mistica del declino, no? Le acciaierie di Piombino, le tessiture di Prato, le acciaierie della Sardegna, no? In realtà noi abbiamo visto che nella piccola e media impresa c'è tutto tranne che la voglia di dire basta, le betoniere non hanno più mercato e noi chiudiamo e andiamo a goderci i soldi alle Bahamas. Ed è altrettanto vero che c'è un tema di cambio di destinazione d'uso, cioè nel senso ci sono alcuni settori in cui probabilmente è più difficile innovare e si deve puntare necessariamente altrove. Ecco, questa è un'altra storia molto, molto italiana. Le energie rinnovabili sono sicuramente uno dei fenomeni di cui si sta parlando molto, forse troppo. tempo, che però è un fenomeno vero ed è un fenomeno che anche un... Ed è un settore nuovo, un nuovo settore di business, accessibile, perché voglio dire... Sì, ha delle barriere, diciamo, non accessibili, sì, però ha delle barriere che si possono essere tranquillamente, certo, affrontate. Insomma, la nostra meccanica fine e le nostre macchine utensili hanno una tradizione che può anche sfociare nel fotovoltaico. Al Politecnico, no? Come viene, cioè, il tema delle energie è un tema che è ancora di marketing o è un tema reale? No, al Politecnico abbiamo realizzato 2 anni fa ormai un dipartimento di energia, che mi risulta il primo dipartimento di energia all'università italiana, mettendo insieme competenze che vengono dalle varie discipline, destinate proprio allo studio della produzione, trasformazione e trasmissione dell'energia. È sicuramente un tema rilevante, è chiaro che è un tema che ha dei costi di ingresso non semplici, quindi non si può pensare che il piccolo imprenditore domattina entri a fare un imprenditore nel settore dell'energia, però è un settore in cui le grandi imprese potrebbero creare molte ricadute anche su piccoli imprenditori. Quindi un indotto, diciamo. C'è un indotto sicuramente elevato e c'è un indotto che spesso è di alta tecnologia, quindi è un punto nel quale il trasferimento di nuova conoscenza verso il mercato è una filiera dalla ricerca al grande imprenditore alla ricaduta sul piccolo. Nova Lab 24. 16.48, siamo con il professor Riccardo Pietrabis, siamo anche con il professor Sandro Mangiaterra e stiamo un po' analizzando, stiamo un po' ripercorrendo, tutti i professori oggi, dai, facciamo così, stiamo un po' ripercorrendo le puntate dedicate alle aziende innovative e anche dei casi, come il caso della GEP di Arzano, provincia di Napoli, che realizzava tecnologia RFID applicata al passaporto elettronico e soprattutto alla tessera. Sta preparando la famosa, la fatidica, la fantomatica tessera del tifoso. Sentiamo che cosa ci ha raccontato a febbraio del 2010 Paolo Pepori, che è l'amministratore delegato della GEP di Arzano in provincia di Napoli, che ci ha raggiunto fino a qui in studio, che lui si occupa di RFID ed è lui il responsabile di quella che potrebbe essere la blindatura del tifoso cattivo, possiamo, sì, metterla così? Sì, in qualche modo sì, sicuramente. Beh, buongiorno a tutti. Diciamo che il nostro mercato si rivolge fondamentalmente ai prodotti che utilizzano la tecnologia radiofrequenza, che ormai comincia a essere conosciuta abbastanza. Le etichette dell'RFID. Le carte dei trasporti pubblici, anche a Milano, a Napoli. Io a Roma, di quella puntata mi ricordo tutti poi i vari commenti, diciamo, sulla tessera del tifoso, su quali stadi. Sì, probabilmente i tifosi della Roma e dell'Inter non sono proprio d'accordissimo, però, in questi ultimi, esatto, però, ecco, giorni. Noi abbiamo scelto quell'azienda perché è una storia innanzitutto localizzata in un luogo, cioè nel sud d'Italia, dove difficilmente, e sbagliando, si parla di tecnologia, invece ci sono moltissime realtà interessanti, e loro in particolare hanno inventato l'uovo di Colombo, cioè hanno applicato una tecnologia esistente a un settore. Esatto, nasce questa azienda con le competenze di ST Microelectronics e con la porto, insomma, in qualche modo della Università Federico II di Napoli, quindi nasce alta tecnologia anche in un settore, cioè, non so, Arzano dà l'idea di essere la patria del falso, lì invece il falso viene smascherato, il falso tifoso, no? Sì, sì, ma questo... ai miei colleghi, professor Tremolada e professor Mangiaterra, questo è un esempio, secondo me, assolutamente pregiato di come un'impresa intelligente, conoscendo i problemi di mercato, va a cercare tecnologia per risolverli. Perché guardate che la conoscenza del mercato e la creatività in molti casi non sono sufficienti. Ecco, andare a cercare la tecnologia e riuscire a integrarla in un prodotto è un passaggio creativo, ma di conoscenza, non è un passaggio creativo puro. E questo devi andare a cercare la tecnologia dove c'è e dove te la sanno sviluppare per riuscire a integrarla guardando al mercato. Chi sviluppa nuova tecnologia spesso non conosce il mercato e chi è sul mercato molto spesso non conosce la nuova tecnologia. Ecco, l'abbinamento di questa roba qui che spesso avviene nelle piccole aziende. E questo comunque è un salto culturale, no? Rispetto all'imprenditore faccio tutto io, no? So fare tutto io, so io quello che ci vuole per sviluppare la mia azienda. Magari coesistono le Però due cose. Però se ci vuole tecnologia... devi anche saperla andare a trovare. Tra l'altro, no? Un tema che volevo, su cui volevo confrontarmi con Peter Bissell, è quello del software. Il software credo che sia uno dei territori dove c'è, cioè, la più bassa barriera d'ingresso, cioè tutti, o io quantomeno, scrivere un programma è accessibile a tutti, scriverlo bene è un altro paio di maniche, però insomma lì si può giocare un ruolo. Beh, su quello sicuramente un ruolo, ragione, l'accessibilità è sicuramente molto molto bassa. Credo che ci sia anche un mercato che ormai non è in grado spesso di distinguere il prodotto di qualità dal prodotto, anche perché sono prodotti che hanno comunque un costo talmente basso, sono, mentre su alcuni altri settori il valore del prodotto è ancora percepito come un valore di qualità tecnologica. Su questo molto spesso non è. Sì, certo, poi magari il business non è direttamente il software, ma il servizio che io traggo dal software, cioè il software diventa l'open source, però io poi dal utilizzando software open source ricavo. Sì, credo che sia chiaro a tutti la differenza fra fare un database per una banca, certo, piuttosto che fare un giochino che distribuisci con la rivista l'edicola, insomma. Mangiatera. No, poi non so se possiamo mandare il... Siamo in chiusura, per cui insomma cedevo la parola a te. No, questa cosa, appunto, noi abbiamo visto queste aziende, però mi pare che ci siano dei cambiamenti davvero, insomma, di ottica, no? Sarà la concorrenza internazionale, sarà la crisi, insomma, non lo so, sarà perché si è capito che la carta vincente, forse dopo tanto parlare, è davvero creare prodotti innovativi, farli vedere, immetterli sul mercato. Però insomma mi pare che ci siano nelle piccole e medie imprese un grande fermento in questo momento e anche un riconoscimento. Poi non so che abbiamo tipo di rapporto, una battuta, no, allora, radiofonici, puoi dire una cosa, allora, la cosa la dice Pietra Bissa, insomma, adesso come sono i rapporti tra industria e università e come dovrebbero essere? I rapporti sono sicuramente migliorati. Io credo che noi abbiamo bisogno oggi di un paese che capisca che l'università e l'impresa insieme possono prospettare il rilancio. E chi deve fare il primo passo? La politica e la finanza. Grandissimo. Allora, su queste parole io vi ringrazio. L'appuntamento è alle 16.30 di lunedì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Nova Lab 24. Nova Lab 24.